se il cardinale non l'avesse subito svegliato da quella contemplazione, domandandogli se tra i parrochi radunati lì si trovasse quello di... «C'è, Monsignore Illustrissimo», rispose il cappellano. «Fatelo venire subito», disse Federigo, «e con lui il parroco qui della chiesa». Il cappellano uscì e andò nella stanza dove erano quei preti riuniti. Tutti gli occhi si rivolsero a lui. Lui, con la bocca tuttavia aperta, col viso ancor tutto dipinto di quell'estasi, alzando le mani e muovendole per aria, disse «Signori, signori, hec mutatio dextere excelsi!» E stette un momento senza dir altro. Poi, ripreso il tono e la voce della carica, soggiunse «Sua Signoria Illustrissima e Reverendissima vuole il signor curato della parrocchia e il signor curato di...» Il primo chiamato venne subito avanti e nello stesso tempo uscì di mezzo alla folla un... «Io?» strascicato con una intonazione di maraviglia. «Non è lei il signor curato di...» riprese il cappellano. «Per l'appunto, ma... Sua Signoria Illustrissima e Reverendissima vuol lei?» «Me?» disse ancora quella voce, significando chiaramente in quel monosillabo «come ci posso entrare io?» Ma questa volta, insieme con la voce, venne fuori l'uomo, Don Abbondio in persona, con un passo forzato e con un viso tra l'attonito e il disgustato. Il cappellano gli fece un cenno con la mano che voleva dire «A noi, andiamo, ci vuole tanto?» e precedendo i due curati andò all'uscio, l'aprì e gli introdusse.